Speciale, la politica nel tunnel. Avevo posto serie riserve alla repentina decisione di un loro ritrasferimento in India. La mia voce, e me ne rammarico profondamente, è rimasta inascoltata. E proprio per questa mia posizione non posso più far parte di questo governo. E annuncio le mie dimissioni. La politica nel tunnel, buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta. E buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito. Abbiamo sentito qui in aula Montecitorio un colpo di scena, l'ultimo del governo tecnico. Il ministro degli esteri Giulio Terzi di Sant'Agata si è dimesso perché contrario al ritorno dei Marò in India. Non si è dimesso ma ha difeso la linea l'ammiraglio Giampaolo Di Paolo, il ministro della difesa, che ha spiegato non abbandona la nave in difficoltà. Insomma, pochi giorni dalla nascita di un nuovo esecutivo, quello Monti perde il capo della diplomazia. Si direbbe in inglese it's never over until it is not really over. Proprio così, Elisabetta, nel momento in cui continuano quindi le consultazioni del segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani, consultazioni che questo pomeriggio includono proprio la lista civica di Mario Monti, e ci saranno probabilmente contraccolpi anche per quanto sta avvenendo proprio qui in aula a Montecitorio. La lista civica è pronta a far nascere l'esecutivo, ma dobbiamo anche dire che le dimissioni di Terzi indeboliscono il premier Monti, che riferirà domani in aula a Montecitorio. Poco fa abbiamo sentito allora Benedetto Della Vedova della lista civica sulla formazione del governo. Sentiamo cosa ci ha detto. Noi pensiamo che l'interesse dell'Italia sia quello di avere un governo riformatore, pro Europa, che possa contare su una maggioranza certa. Quindi il pensiero, diciamo, è abbastanza sovrapponibile a quello espresso dal presidente Napolitano. Quindi sono tre elementi che devono stare insieme: riforme, Europa e maggioranza certa. Il risultato elettorale è stato quello che tutti conosciamo, quindi la proposta deve tenere conto di questi elementi perché ci sia il consenso di scelta civica per l'Italia. Com'è possibile che Bersani e Berlusconi possano ritrovarsi insieme al governo? È possibile che si apra una discussione tenendo conto dell'interesse dell'Italia, che io non credo possa essere quello di tornare a un voto con le regole attuali, che avrebbe un'alta probabilità di lasciare le cose come stanno, magari a parte invertite, ma insomma è chiaro che il rischio comunque di avere un nuovo Parlamento che in una delle due Camere vede solo minoranze di blocco e non di maggioranze, e non vede maggioranze, è un rischio elevatissimo. I numeri sono quelli, bisogna trovare il modo di discutere, altrimenti la palla ripasserà a Napolitano, il quale non credo che si arrenderà, eventualmente dovesse arrendersi Bersani. E qui a Montecitorio, se da una parte in aula continua la discussione sul caso dei due Marò, poco fa è intervenuto anche Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle. È stata la prima volta di un grillino in aula, un intervento molto duro in cui il Movimento chiede maggiore chiarezza e non è soddisfatto delle informative, chiede anche prove online per i cittadini. Un Movimento 5 Stelle che però guarda anche quanto succede al primo piano, dove sono in corso le consultazioni di Pierluigi Bersani per la formazione del nuovo governo, un Movimento 5 Stelle che chiude sì la porta a Bersani ma non alla formazione di un governo con personalità esterne. Sentiamo cosa ci ha raccontato Matteo Dall'Osso. Non è che noi approviamo la fiducia cieca, noi vogliamo un movimento a 5 stelle, non di 5 stelle. Che vuol dire il governo a 5 stelle? Il fatto ha fatto una lista di nomi coi quali ci metterebbe in difficoltà se dare o non dare la fiducia. Tipo Saviano. Sì, tipo la Gabanelli. Allora, la Gabanelli, Saviano e Bersani Premier. Ta ta ta ta. No, deve essere super partes, deve essere fuori, una persona che non c'entra nulla con la politica. Io non ho fiducia di una persona così. Se anche mi metti i ministri più belli del mondo, ma mi metto una persona a capo del Consiglio colui che organizza i lavori dei vari ministeri di cui noi non abbiamo fiducia. Noi siamo qui in questo momento perché abbiamo smesso di delegare, noi non deleghiamo più. Guarda, io in questo momento parlo per me, ma penso anche di parlare a nome di tutti. Noi non abbiamo fiducia, non deleghiamo più il nostro futuro a qualcuno che è stato dentro, qui dentro, per più di... quanti anni è che qui dentro? Forse dovevo ancora nascere. Ma era l'opposizione però. Ma opposizione? Opposizione cosa? Opposizione? Chi era ministro dell'industria quando hanno fatto le peggio cose? Sì, ok, 20 anni fa. Ok, allora io ti dico, chi ha fatto le peggio cose 20 anni fa? Lui. E adesso mi stai chiedendo di dare la fiducia a lui. E io ti dico di no, non la diamo la fiducia a lui. Se ci vogliono mettere in difficoltà, fanno così, perché se no i giochi sono già stati fatti. Noi non diamo la fiducia. Gabanelli premier, Saviano vice premier. No, Gabanelli ministro dell'istruzione, Saviano ministro, non lo so, della giustizia, della cultura o eccetera. E il premier? Beppe Grillo. Zagrebeschi ad esempio. E la fiducia a Bersani sembra quindi essere legata, Elisabetta, a dei nomi anche da parte del Movimento 5 Stelle, Movimento 5 Stelle che domani mattina incontrerà Bersani qui a Montecitorio alle 10.30. In questo momento nella Sala del Cavaliere a Montecitorio Bersani sta incontrando i rappresentanti del Popolo della Libertà insieme alla Lega. Le due delegazioni staranno ribadendo, immaginiamo, il via libera ad un governo di larghe intese, anche se Bersani non sembra intenzionato a cedere. Sullo sfondo anche la partita del Quirinale. Sappiamo che il Popolo della Libertà vuole un candidato di centrodestra o comunque non di sinistra. Ma sentiamo allora cosa ti ha detto Antonio Leone del PDL. Il PDL non vuole assolutamente che in questa occasione ci sia e si continui a ghettizzare un partito e una coalizione che ha il 30% dei voti degli italiani. E il PDL si offre per uscire dalla crisi dando una mano al nuovo governo, una coalizione che faccia le riforme e che avvii il tentativo di uscire da questa crisi. Non ci possono essere pregiudiziali e naturalmente il discorso vale anche per tutto il seguito di questa legislatura, mi riferisco all'elezione del Presidente della Repubblica e tutto quello che verrà dopo. Questo vuole il PDL. Sì, ma Anna Maria Cancellieri al Quirinale vi andrebbe bene, per esempio? Ma io questo toto nomine per il Quirinale non mi appartiene. Se la Cancellieri incontrerà il gradimento del PDL prima e anche del centrosinistra, è un nome che si può spendere. Io eviterei di farli proprio perché quando si spendono i nomi alla fine si bruciano. No, perché la Biancofiore oggi ha detto Berlusconi al Quirinale, Berlusconi. Non lo so, la Biancofiore può pensare legittimamente che Berlusconi possa essere un nome spendibile, lo penso anch'io, e il problema è la convergenza politica sui nomi. 8 punti, negli 8 punti di Bersani c'è anche il conflitto di interesse, li votereste questi 8 punti? Gli 8 punti, alcuni punti sono anche i nostri ed è anche questo sotto gli occhi di tutti. Per quanto riguarda il conflitto di interesse ci sarebbe il divieto del NBS in idem, è una legge che già esiste. Quindi non c'è bisogno nemmeno di mettere gli 8? Assolutamente no, e non penso che sia nella priorità di questo paese. Questo dunque il Popolo della Libertà. E cosa accade intanto nel Partito Democratico? Beh, i giovani chiedono anche di cambiare qualcosa. Sentiamo allora cosa ci ha detto Edoardo Fanucci, neo eletto. Edoardo Fanucci, Partito Democratico. Anni? 30, compiuto il 24 febbraio, il giorno delle elezioni. Che cosa pensa di quello che sta succedendo all'interno del Partito Democratico? Il Partito Democratico avrebbe vinto le elezioni in modo più netto se ci fosse stato Renzi? Dalle mie parti si dice con i se e con i ma non si fanno le industrie, non si fanno i progetti. Certamente noi abbiamo sostenuto Renzi, lo sosteniamo ancora oggi, ma in realtà Renzi ha perso le primarie. Di conseguenza abbiamo fatto bene a sostenere Bersani, a portare la linea del segretario e ancora oggi lo sosteniamo. Certo, nel Partito Democratico certamente qualcosa non funziona, perché sostanzialmente siamo stati visti non come il partito di rottura e di cambiamento, ma come il partito che ha sostenuto il governo Monti, quindi corresponsabile dell'Italia, di cosa è oggi l'Italia, anche se noi quel governo l'abbiamo sostenuto in minoranza. Spiegarlo all'Italia non è stato facile. probabilmente accogliere qualche spunto di Renzi sarebbe stato dirompente in campagna elettorale, quindi non solo portarlo a fare le convention, e Renzi con lealtà si è presentato in tutte le sedi, ma accogliere qualche punto della campagna elettorale: cancellazione delle province, abolizione del finanziamento pubblico, dimezzamento del numero dei parlamentari. Pochi temi, ma chiari, certi. Ecco, questo forse poteva essere fatto in maniera migliore. Questo dunque è il parere di un giovane democratico. Noi vi racconteremo di nuovo come va la crisi. Un saluto da Elisabetta Fiorito e da Vincenzo Miglietta.